Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Bene, oggi parleremo di un argomento che susciterà sicuramente magari in qualcuno anche probabilmente disgusto, però è un argomento che sempre più, diciamo, sta bruciando sotto sotto e sta emergendo e, diciamo, è passato all'attualità pochi giorni fa con un convegno della FAO. E stiamo parlando di insetti, mangiare gli insetti. Ebbene, il direttore generale della FAO ha annunciato, per combattere la fame nel mondo, uno degli strumenti potrebbe essere incrementare appunto il cibo con gli insetti. Bene, credo che sia un argomento molto tranquillo nei paesi orientali, in Australia, in Africa e in altri paesi, un po' meno in Europa, anche se, e questo è il punto, in Italia se ne sta parlando da tempo, ci sono convegni, ci sono esperimenti, così pure a Londra esiste un ristorante ad hoc che si chiama Arcipelago, c'è un festival della cucina degli insetti sempre Londra. Bene, il più grande, diciamo, chef fino all'anno scorso nella graduatoria dei 50, il danese Red Zappi, cucina dei piatti con gli insetti. Anche altri cuochi a livello mondiale lo fanno. In Italia ha fatto un piatto un giorno così per esibizione, ma non lo ha messo nel menù, Carlo Cracco, che erano locuste arrosto al vino rosso. Quindi, insomma, un tema sicuramente che vale la pena di dibattere appunto con i pro e i contro. Allora, noi iniziamo con il professor Roberto Valvassori, ordinario di zoologia e coordinatore di un evento importante che si chiama entomofagia, ovviamente da chi appunto mangia insetti. Entomofago è magari colui che lo mangia e anche colui probabilmente che lo studia, non solo l'uno e l'altro, dell'università in Subria. Ebbene, tra le cose che ho letto di questo intervento del professore ce n'è una che mi ha molto colpito, che ora appunto chiedo a lui. Mangiare un cocktail di gamberetti oppure di cavallette non comporta grandi differenze sia dal punto di vista zoologico che nutrizionale. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Mi vuole commentare questa frase, che è molto importante perché mette sullo stesso piano pesce appunto e insetti? Dunque, pesci non è un termine adatto per tutto ciò che una volta si usava per tutto ciò che derivava dal mare. In questo caso noi parliamo di crostacei, i gamberetti sono crostacei, che con gli insetti condividono l'appartenenza a un grosso gruppo che è quello degli artropodi, e dal punto di vista sia, se vuole, dimensionale, sia dal punto di vista della organizzazione corporea, certamente ci sono delle grosse differenze, però sostanzialmente il piano strutturale, il piano costruttivo di questi animali è molto simile, quindi anche da un punto di vista nutrizionale in generale credo che ci siano certamente delle differenze significative, però non così clamorose come uno si potrebbe immaginare. Ecco, questo allarme lanciato dalla FAO, lei pensa che possa avere una consistenza? Questo dice, la fame la possiamo anche combattere in una parte del mondo dove ci sono quei 2 miliardi che sono abituati di persone che sono abituati a mangiare insetti. Non si può che essere d'accordo con queste sollecitazioni che ci vengono da enti estremamente autorevoli e qualificati. Il problema della nutrizione di un pianeta che va crescendo, dell'alimentazione di un pianeta che va crescendo numericamente, come è stato stimato, e il cui fortunatamente il livello di benessere, quindi di richiesta nutrizionale, va automaticamente crescendo pure, deve portare all'attenzione il problema di come trovare, l'ha detto lei prima, delle fonti alternative. Ovviamente non è una soluzione unica, ma sono delle fonti alternative. Che il problema sia di estrema attualità è anche supportato dal fatto che questi miliardi di persone che già oggi si nutrono di insetti lo fanno prelevando sostanzialmente in ambiente gli animali, ovviamente senza avere nessuna garanzia sulla salubrità dell'alimento che vanno a prendere, e ovviamente senza avere la benché minima possibilità di avere un controllo sull'entità e sulla qualità del prelievo che viene fatto in ambiente. E questo, da un punto di vista, diciamo così, della stabilità delle popolazioni naturali, può costituire un grosso problema. Quindi portare all'attenzione del mondo della ricerca, ma non solo, del mondo dell'imprenditoria, un problema di questo genere, penso che sia assolutamente importante, anche tenendo conto del fatto che da qui a 2 anni a Milano ci sarà un evento internazionale che si chiama Expo 2015, che ha come tema importante nutrire il pianeta, quindi il problema di come nutrire il pianeta è certamente un problema attuale. Tra l'altro devo dire che mi arrivano già sms, ne leggo uno: a quelli che si schifano a pensare di mangiare insetti dico che non dovrebbero mangiare gamberi o simili. Bene, quindi diciamo che appunto ognuno può dire la propria, quindi si è liberi di intervenire. Anzi, ricordo, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Un'ultima domanda, professor Vavassori: si parla anche di allevamenti appunto di insetti che possono servire appunto per il cibo. Ecco, quali possono essere, diciamo, quelli più adatti? Ma guardi, qui invito per chi fosse interessato ad andare a vedere giusto appunto la pubblicazione che lei ha citato, recentemente uscita, che si trova online sul sito della FAO, per i dettagli, ma certamente sono diverse le specie che già oggi vengono allevate per svariate ragioni, o a livello, diciamo, individuale, familiare, per il personale consumo, e questo certamente non avviene nei nostri paesi, diciamo, del mondo occidentale, oppure come materiale per nutrire gli animali d'affezione, si trovano comunemente in commercio. Ma il problema è giusto appunto questo: è estremamente interessante, soprattutto per chi vuole immaginare un futuro anche di tipo di attività lavorativa, di tipo imprenditoriale. Ci sono amplissimi spazi su cui potersi esercitare per immaginare di rendere, immaginare una filiera produttiva redditizia di animali che tutto sommato sono dei fitofagi, cioè si nutrono di materiale vegetale. E uno ovviamente degli obiettivi centrali di questo tipo di ricerca è come utilizzare l'enorme quantità di scarto vegetale o di scarto alimentare che le nostre produzioni comportano, e non destinarlo a una semplice discarica indifferenziata o ad altre filiere che sono certamente meno interessanti da un punto di vista nutrizionale rispetto a quello di usarli come alimento per gli insetti, che a loro volta potrebbero essere utilizzati tal quale o come farine o come prodotti derivati dagli insetti per l'alimentazione non solo dell'uomo ma soprattutto degli animali. Grazie professor Vavassori. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cavallette, di grilli e di formiche. Come ho detto prima, so già quali possono essere le reazioni, però ne vedo tante sugli sms, poche a voce, 800 24 00 24. Bene, leggo subito un sms che mi arriva da Esther di Monza. Mi dice: mi scusi gastronauta, ma lei ha mai mangiato insetti? No, lo confesso, non li ho mai mangiati. Sto parlando di insetti perché credo che sia un argomento interessante che oggi, diciamo, è un po' alla portata dell'opinione pubblica, però io non le ho mai mangiate. Non so se di fronte a un piatto di insetti quale potrebbe essere la mia reazione, ma siccome sono curioso magari potrei anche mangiarli. Bene, continuiamo nel nostro percorso. Abbiamo con noi Giuseppe Della Beffa, entomologo, soprattutto anche commentatore di un libro, Insetti che bontà, di Bruno Combi, che credo che sia uno dei primi che ha parlato appunto di mangiare gli insetti e appunto dal punto di vista, chiamiamolo così, della cucina. Buongiorno Della Beffa. Buongiorno a lei. Buongiorno. E a tutti gli ascoltatori. Sono veramente buoni gli insetti, Della Beffa? Guarda, io non li ho mai mangiati consciamente, nel senso che facilmente tutti noi li abbiamo mangiati senza saperlo, come mangiamo acari e altre cose, però consciamente non li ho mai mangiati, e anzi quando mi sono trovato in paesi esotici dove vedevo che li mangiavano non ho fatto il passo, ecco. Quindi si è fermato un po' prima. Senta, ma questo libro di Bruno Combi si può dire che è un best seller nel settore? Perché diciamo sì, che anche perché ce ne sono pochi di questi argomenti, non è che sia un argomento così trattato. Certo. Quello lì è stato edito più di 20 anni fa, ecco, quel libro. Poi è tradotto in moltissime lingue, ho visto. Sì, quindi sì, è abbastanza, diciamo, una pietra miliare di questo argomento. Ecco. Senta, prima sentiamo Pierangelo da Verona, un radioascoltatore. Buongiorno Pierangelo. Buongiorno a voi. Allora io ho appena acceso, ho sentito che parlate di insetti della FAO che pensa di usarli per la fame nel mondo. Sì. C'è una ragazza che io l'avevo sentito ancora un paio di anni fa, se non sono due sarà un anno e mezzo, di Torino che sta lavorando su questo. Lei fa biscotti agli insetti ed era in contatto con enti, cose varie, comunque per appunto il problema della fame nel mondo, e stava lavorando su questo. Non so se sapete qualcosa. No, io comunque, non so, io magari se, no. c'è questa pasticcera in linea che ha ascoltato, che sta ascoltando, prego di chiamare, perché è interessante sapere se in Italia appunto c'è qualcuno che appunto fa pasticceria, in questo caso con gli insetti. Grazie Pierangelo da Verona, ricordo ancora 800 24 00 24. Torniamo a Giuseppe Della Beffa, entomologo, al quale voglio chiedere, ma Della Beffa, ma è sano mangiare gli insetti? Possono portare malattie o d'altro? No, non penso assolutamente, anzi moltissimi popoli li mangiano. Io ricordo quando in Africa raccoglievo altri insetti e c'erano i locali che erano vi facevano concorrenza perché se li mangiavano, ecco, tranquillamente, anche crudi, così, ecco, le termiti e altri insetti venivano mangiati sul posto, ecco, tranquillamente. È una questione di abitudini, di forma mentis. Noi mangiamo, come diceva prima il professore, i gamberetti, mangiamo le lumache, mangiamo un mucchio di cose, potremmo benissimo mangiare gli insetti. I nostri progenitori romani mangiavano le larve di insetti tranquillamente, le trovavano squisite, quindi sicuramente fino a qualche anno fa nessuno di noi mangiava il pesce crudo, e adesso è pieno di ristoranti che fanno il pesce crudo, ecco. Quindi lei dice questione insomma di abitudine, questione può essere anche questione di moda qualche volta. Certo. Le previsioni però ritengo che siano molto difficili. Se uno 20 anni fa mi avesse detto che in Italia c'era gente che si faceva dei tatuaggi, avrei detto ma no, siamo impazziti, sono cose che non si fanno più, eccetera, altri posti, invece oggi sono tutti tatuati, quindi le previsioni non le vedo facili, ecco. Sicuramente, come diceva il professore, ritengo che è più facile per l'industria, per l'allevamento, per gli animali, per avere delle proteine. Trovo molto meglio le proteine degli insetti piuttosto che scarti di macelleria che pure hanno generato, certo, la vacca pazza, eccetera, eccetera. Comunque ci sono già punti di vendita nei supermercati olandesi, per esempio. Sì, in anche negli Stati Uniti si trovano spesso in scatola, perché sono arrivate popolazioni dove si usava e quindi il prodotto è in vendita. Bene, grazie. Grazie Giuseppe Della Beffa, entomologo. Sentiamo Riccardo da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a voi. Io porto solo una testimonianza, Davide, anche perché la seguo continuamente. Nell'ambito dei miei viaggi, numerosi viaggi in giro per il mondo, mi sono trovato a Chiang Mai, nel nord della Thailandia, che è una città piuttosto grandina, quasi al confine con Laos e Birmania, e in un mercato rionale, un semplicissimo mercato alimentare, ma qui si vendeva anche molta altra roba, stavo guardando un po' questa mercanzia varia, e c'erano dei sacchi di juta aperti, sul tipo dei sacchi di semi che si vedono spesso nell'America centrale piuttosto che in Perù, pieni di semetti strani, a volte di colori molto diversi, e ho visto una mamma che portava il bambino che era appena uscito da scuola davanti a questo banchetto che vendeva questa specie di sementi, e gli ha fatto fare un cartoccino di carta nel quale gli ha fatto mettere un po' di semetti. Il bambino se li mangiava molto, in modo molto soddisfatto, andando via con la mamma, che mi sono avvicinato per chiedere, e il tizio mi ha guardato e mi ha detto, dice, tu sei europeo, dice, non ti dico che cos'è, assaggiali, e mi ha dato 2 o 3 di questi semetti che erano veramente straordinari, perché erano buonissimi, erano caramellati, un po' tipo le mandorle caramellate che mangiamo a Natale, no? Certo. Erano veramente buonissimi, me ne sono fatti dare un misto e li ho mangiati con molto gusto, e solo dopo ho saputo che erano tutti insetti. Bene Riccardo, bene. Ha mangiato non sapendolo. Beh, poi quando l'ha saputo non so se avrebbe rimangiato poi. No. Bene. Sì, avrebbe rimangiato. Bene Riccardo da Roma, ricordo numero verde 800 24 00 24. Ma abbiamo con noi ora Roberto Fabri. Roberto Fabri è entomologo e presidente della associazione Lestes di Ferrara. Bene, questa associazione ha fatto diversi esperimenti anche appunto di cibo, ma a Roberto Fabri in particolare voglio chiedere consigli per l'allevamento domestico, perché so che lui è un esperto. Buongiorno Fabri. Buongiorno. Sì. Per quanto riguarda l'allevamento di insetti in casa ho sì un po' di esperienza, la maggior parte comunque degli insetti di solito che utilizzo l'alimentazione a base di insetti, li acquisto anche, insomma, soprattutto quando dobbiamo fare delle serate, delle mangiate. E dove le acquista, Roberto? Anche in Italia. L'unico problema è che in Italia di solito gli insetti vengono allevati per scopi tutt'altro che alimentari. Vengono utilizzati per la pesca, vengono utilizzati per allevare... Beh, i famosi lombrichi, insomma, per pescatori... Lombrichi no, stiamo parlando comunque anche di camole del miele, quindi di bruchi di farfalla, di grilli, di cavallette, vari insetti, insomma. Ne riusciamo a utilizzare, diciamo, per l'alimentazione umana, allevati anche in Italia, circa una decina di questi... Senta, lei ha parlato di mangiate, facciamo le mangiate. Dove le fate, Fabri, queste mangiate? Allora, soprattutto in Emilia Romagna, ma comunque abbiamo fatte anche in Lombardia, in Veneto, a Grosseto. Normalmente sono delle serate con una conferenza introduttiva e dopo si arriva, diciamo, all'assaggio di vari piatti a base di insetti. Abbiamo fatto proprio però anche delle cene, dall'antipasto fino al dolce, in varie città, in cittadine, insomma, soprattutto in Emilia Romagna. Io sono romagnolo, quindi difendo comunque i nostri, diciamo, gusti romagnoli, però alcuni piatti sì, vado... Mi viene da ridere perché penso alla piadina con le formiche, quindi... Non è male, perché abbinare la piadina comunque a un insetto che è proteico non è male, insomma, non è da buffare. Poi ricordiamoci che le formiche sono insetti che hanno tantissimo... parecchio ferro e soprattutto calcio, quindi sono insetti dal punto di vista alimentare molto buoni. Senta, Fabri, la prossima mangiata dove la fate? La prossima mangiata sarà tra Bologna e Modena il 16 di giugno. Bene, sono già previsti i piatti? Sì, sto pensando cosa fare, ma soprattutto adesso, siccome sarà prima di cena, immagino qualcosa soprattutto di salato, unito comunque tipo a cavallette ricoperte di cioccolato, qualcosa, comunque che attiri anche... Quindi andiamo sulla pasticceria, insomma, cioccolato. Anche pasticceria, certo. Bene, grazie a Roberto Fabri, abbiamo sentito una testimonianza veramente importante. Sentiamo Silvano da Varese, buongiorno Silvano. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Io porto una piccola testimonianza, sono di Luino sul Lago Maggiore per l'esattezza, e io ho viaggiato un pochettino per lavoro e viaggiando ero a contatto diretto con la popolazione locale sia in Oriente che in Africa, e io ho sempre mangiato con loro, assieme a loro, gli insetti lì si mangiano sia le cavallette che le formiche, iguana, serpenti, queste cose si mangiano comunemente. Certo. Io le trovo molto buone, molto nutrienti, le mangio tutte le volte che ci posso andare e credo che sia solo uno stereotipo nostro occidentale. È un fatto culturale. Grazie Silvano, bene, ci sono tantissimi sms, c'è chi ha mangiato, vedo in Australia le formiche verdi, Luisa da Roma, sono tornata 3 mesi fa dalla Birmania, qui ho visto dei piattoni di cavallette fritte, ai miei bei tempi andava di moda il compost fatto da lombrichi e ci facevamo le frittate, ha specificato lombrichi americani, insomma c'è un po' di tutto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo ancora tra grilli, tra bruchi, tra cavallette, tra formiche. Bene, ho ricevuto moltissimi sms che mi raccontavano di esperienze, ma ne ho ricevuto anche uno che vale la pena di essere letto, perché sono completamente d'accordo. Si parla di mangiare insetti per problemi futuri di alimentazione, quando per colpa di un consumo sfrenato si butta molto più cibo di quello che ci serve. Io sono completamente d'accordo, però ricordo Emanuele da Torino che ha mandato questo sms, che probabilmente si butta nel mondo occidentale dove non si mangiano insetti. Il problema credo che riguardi anche e soprattutto l'altro mondo. Comunque continuiamo, sentiamo Giuseppe dalla provincia di Macerata, un altro radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Davide, io sono Giuseppe, tra virgolette Peppe Cotto. Sì. Ho una macelleria e ho sentito parlare di scarti di macelleria, che sì, comunque in macelleria non si butta via nulla, però quello che ho sentito parlare è che negli insetti ci sono molte proteine. Quanti insetti ci dovremmo mangiare per avere l'equivalente di proteine in carne? E poi ben vengano, io, a me piace mangiare tutto, e già ho in mente una ricetta, la ricetta con le cava alette, perché in fondo anche i polli hanno le ali come gli insetti. Che ne dici? Va bene Peppe Cotto, benissimo, grazie, grazie del tuo intervento. Bene, ora andiamo abbiamo parlato appunto di viaggi, abbiamo parlato di tantissime, diciamo, esperienze, e abbiamo con noi un viaggiatore, Enrico Montanari, redattore del turista.info, che recentemente, ho visto sul sito, anzi non recentemente, in passato, ha pubblicato proprio un elenco di tutti, diciamo, gli insetti commestibili. Buongiorno Montanari. Buongiorno a voi. Ecco, volevo chiedere, voi che avete un sito così di viaggio, siete spesso interpellati per il discorso di dove mangiare gli insetti e quali insetti mangiare? No, sembra che in Italia non ci sia ancora una cultura sull'entomofagia, quindi è una domanda che non ci viene posta, perché viene visto ancora l'argomento con un certo ribrezzo. Ecco, ma voi avete pubblicato tutti, diciamo, punto per punto, tutti appunto gli insetti. Volevo chiedere, sì, cioè questo l'avete fatto per informazione ovviamente ai vostri navigatori, però volevo chiedere, sono esperienze vostre, questi di vostri redattori, sue appunto, di questo elenco enorme che avete pubblicato? No, non tutte. Personalmente si è avuto l'occasione di farlo nel sud-est asiatico, in Cina e in Thailandia. E poi chiaramente ci siamo documentati per fare una panoramica generale, visto che anche in Sud America, in Centro America, l'entomofagia sta crescendo comunque come fenomeno. Quindi in Italia ancora non c'è molta rispondenza, insomma? Non c'è. Io personalmente ho anche provato il caso Marzu, quindi ho provato anche un prodotto a base di insetti italiano. Beh, guardi, esatto, di questo ne parleremo, perché avremo un esperto, confesso anch'io di averlo. Ecco, prima mi era stata fatta questa domanda e dico, bene, ho mangiato anch'io quel famoso formaggio lì, non ho saputo resistere alla tentazione. Grazie Enrico Montanari. Bene, abbiamo con noi anche Marco Valle, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Bergamo, dove sono stati fatti molte esperienze appunto, anche del cibo appunto a base degli insetti. Addirittura ho letto di un menù anche dove ci sono dei piatti di pasticceria, e abbiamo con noi appunto la pasticcera che le ha preparati. Ora però volevo chiedere a Marco Valle, perché il Museo Civico di Storia Naturale di Bergamo ha varato questa serie di esperienze? La nostra, diciamo, è una storia un po' da museo, non da cucina o da nuove frontiere per la gastronomia. E noi come Museo di Scienze Naturali rileviamo che gli insetti, nonostante siano il gruppo zoologico più abbondante come numero di specie, come quantità, diciamo, di biomassa in natura, siano sempre degli oggetti misteriosi e in genere schifati. Tutti ritengono che gli insetti siano portatori di sporco, siano portatori di malattie, cose che assolutamente non sono vere. E allora, in occasione dell'inaugurazione di una mostra dedicata agli insetti, abbiamo iniziato nel 2007 la prima volta a proporre alcuni piatti basati su questo tipo di alimento. Chiaramente era con noi Roberto Fabbri, che chiaramente conosciamo da tempo, e da allora siamo praticamente condannati ogni anno, in occasione delle notti nei musei, organizziamo una serata. Siamo stati anche particolarmente fortunati, perché si sono avvicinati a noi altre persone, cuochi, Gaetano Orlando, Nadia Bonassola, Davide Oltolini, tante persone che ci hanno aiutato ad andare avanti in questo percorso. Ecco, io purtroppo non sono riuscito, diciamo, a far intervenire Carlo Cracco, perché è in Australia, Gaetano Orlando perché non sono riuscito a rintracciarlo, però ho rintracciato la pasticcera Nadia Bonazzola. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Buongiorno Nadia, che ha un Facebook, la sua pagina Facebook molto attiva, che si chiama La Centesima Regina delle Torte. Voglio chiedere, ecco, la sua esperienza con fare pasticceria con gli insetti in questi, diciamo, in questi momenti, in queste serate del Museo Civico. Niente, a noi è stato chiesto appunto di creare dei dolci con gli insetti, e io non ho fatto altro che prendere delle ricette tradizionali e aggiungere questi insetti. Per esempio avevamo fatto una mousse al cioccolato che si sposa bene con un crumble croccante, e in questo crumble croccante avevamo messo le larve della farina, che come si dice, restano leggermente croccanti e si sposavano con questa mousse al cioccolato. Lei le ha fatte solamente in occasione di queste serate del museo oppure ha fatto anche poi, diciamo, degli altri esperimenti? No, bene o male solo per quello. Poi eravamo stati chiamati anche dalla signora D'Urso, ma anche lì la cosa è finita. Cos'era? È un'altra esperienza questa che signora sì. D'Urso? Sì, a pomeriggio 5. Sempre per queste. Ah, ho capito, appunto, di farla direttamente. Bene, grazie di questa sua testimonianza. Beppe da Parma, buongiorno, radioascoltatore. Buongiorno, mi sono collegato a trasmissione già avviata e magari ne avete già parlato. Complimenti perché l'argomento è interessantissimo. Mi interessava sapere se c'è una differenza per quanto riguarda l'alimentazione degli insetti destinati per alimentare i pet e quelli destinati all'alimentazione umana. Bene, chiediamo a Marco Valle e sicuramente si farà rispondere a questa domanda. Valle, prego. Mi scuso un attimo, ma ero un attimo distratto. Mi puoi riassumere? Sì, no, ha chiesto se, diciamo, gli insetti destinati all'alimentazione diciamo umana, se in caso di allevamento hanno un allevamento diverso rispetto a quello naturale, appunto, che si possono trovare così, diciamo, nell'aria oppure in terra o altro. Certamente, come diceva il professore prima, raccogliere animali in natura non si ha idea di quale sia stato il loro percorso, quindi non si sa cosa si va a mangiare. E con l'allevamento c'è la possibilità di almeno seguire sia l'aspetto nutrizionale, quindi cosa mangiano questi insetti, anche se non si è del tutto sicuri su eventuali infezioni che possono capitare, quindi salmonella, questo capita anche nei pollai, per intenderci, se non sono gestiti in modo adeguato, che si sviluppano malattie che possono essere poi trasmesse, quindi l'allevamento di per sé non garantisce che questo cibo, se vogliamo considerarlo cibo, sia sano, quindi bisogna prendere diverse precauzioni, quindi tenere l'ambiente il più possibile sterile e quindi curare lo sviluppo di queste forme di vita. Senta, dottor Valle, lei ha fatto ho visto un momento, ha detto cibo, se possiamo considerarlo cibo. Lei ha qualche dubbio? Beh, io non sono una voce fuori dal coro, perché io non penso proprio che in Europa, da noi, ci possa essere questo sviluppo di entomofagia. Sia per motivi tradizionali, cioè mangiamo le lumache, che personalmente penso facciano più ribrezzo che un'ape o una cavalletta, fondamentalmente, però nella tradizione le lumache garantivano un bottino adeguato per riempirsi la pancia, e questo ha portato a scoprirlo anche come risorsa alimentare, quindi a produrre dei cibi, dei piatti che sono nella nostra tradizione, anche se non da tutti sono graditi, mentre invece per gli insetti questa tradizione non è mai esistita. E il discorso che si fa sempre del carico proteico che questo cibo, sempre tra virgolette, ha, non mi convince appieno, perché secondo me una pasta e fagioli, una pasta e cicerchi, adesso non si conoscono neanche più le cicerche, ma erano chiaramente dei legumi che avevano un apporto proteico notevole e si sono andate completamente perse. Sarei per riprendere quelle tradizioni, la pasta e ceci, pasta e fagioli, proteine e carboidrati, non il grillo domestico grattugiato, mi sembra un po' fuori luogo. Bene, grazie professor Valle. Luisa da Roma, velocissima. Buongiorno. Pronto? Pronto, sì. Ci sono, eccomi. Mi dica. Allora, io volevo raccontarvi velocissimamente, avevo già mandato un SMS. Sì. Quando sono stata in Australia, in visita a un parco nazionale nella parte nord dell'Australia, ho mangiato, letteralmente raccolte da terra, quindi vive, le formiche verdi, sì. Che sono quelle mangiate dagli aborigeni Prendere vitamina C, perché sono verdi, perché sono ricche di acido citrico, e infatti sanno di limone. Ho capito. Bene. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di grilli, a parlare di cavallette, a parlare di insetti, come abbiamo sentito lungamente, con pro e contro, quindi è sicuramente un argomento dibattuto e, come abbiamo detto prima, dal punto di vista, se vogliamo, culturale, per noi occidentali non è un problema che si affronta molto tranquillamente. Ma mi è successo l'altra sera, ero vicino a cena a un noto produttore di vino che è Marco Pallanti del Castello di Ama, e non so come è saltato fuori questo argomento, e lui mi ha detto: ma sai, mi è capitato in Brasile di mangiare nel quello che oggi è uno dei, diciamo, degli emergenti a livello mondiale, lo chef Alex Atala, e a un certo punto ho mangiato, mi ha sottoposto un piatto in cui c'erano gli insetti e devo dire che l'ho mangiato. È così, Marco? Oh sì, ciao Davide. Ma cos'era questo piatto? Lui, quando mi ci ha accolto, stava prendendo l'ordine, mi ha chiesto, ma tu mangi tutto? Beh, insomma, questa domanda in Europa non ho paura. Dico, no, sì, io mangio tutto, non ci sono problemi. Dice, ma tutto davvero? Dico, ma sì. E quindi niente, mi ha proposto queste formiche dell'Amazzonia, insomma. Oh, e com'erano? Ma senti, il piatto era molto semplice, nel senso che era due pezzettini di ananas con due formiche, una per pezzetto, e io ho assaggiato incuriosito, cioè voglio dire, c'è da vincere un po' la reticenza iniziale, ma vinta quella, lo assaggi, e quello che mi ha colpito era che era proprio, aveva un sapore forte di noce moscata. Allora gli ho chiesto se lui avesse aggiunto qualcosa e mi ha detto di no, e quindi a quel punto mi sono incuriosito da chiedergli di poter assaggiare una formica da solo. E quindi sapeva sempre di noce moscata? Sapeva di noce moscata, era una spezia praticamente. Ho capito. La consistenza te la puoi immaginare, certo. Quello un po' croccante, ma insomma quello non era importante. Bene, ci hai bevuto sopra un bicchiere di Chianti Classico. Grazie a Marco Pallanti e della sua testimonianza. Egidio da Roma, buongiorno radioascoltatore. Buongiorno. Senta, le volevo solo dire che io ho avuto occasione a un fonte, contrariamente agli amici del gruppo che andavano a mangiare all'Holiday Inn, al ristorante italiano, mi inoltravo nella città e assaggiavo nelle rosticcerie locali specialità cinese, perché la specialità cinese, quella vera, è veramente straordinaria. Sì. E ho avuto occasione di mangiare, non so, come dei vermoni, forse delle larve, che erano fritte in una salsina straordinaria, che non sapevo di che si trattasse, me le hanno servite così, le ho assaggiate. Ma com'erano in fondo? Erano buone? Guarda, somigliavano un po' ai gamberi. Ecco, vedi, sì, ci sono molti, appunto abbiamo parlato prima di crostacei, il professore ci ha parlato che molti sono simili ai crostacei. Grazie Egidio da Roma. Bene, io ho avuto tantissimi sms che dicono, beh, insomma, tante storie per andare all'estero, ma noi in Sardegna abbiamo un formaggio che sicuramente, senza, diciamo, andare molto lontano, è un formaggio che è considerato, appunto, che contiene questo verme. E allora abbiamo con noi Antonio Puzzu, che è un cultore di tradizioni sarde. Buongiorno Puzzu. Buongiorno a voi. Bene, è una tradizione sarda questa del formaggio, diciamo, secolare? Sì, abbiamo una grandissima tradizione di produzione di formaggio. Diciamo che la più filacasi si trova, depone le sue larve anche in altri formaggi italiani comunque. Diciamo, quello sardo è il più famoso fino adesso. Ho capito. E senta, c'è stato un momento che qualcuno diceva che era vietato metterlo in commercio. Allora, purtroppo è ancora vietato. C'è un consorzio qua in Sardegna che si è formato proprio per cercare di, come dire, di far pervenire alla comunità europea il fatto che, così come un po' come la gorgonzola, non è una cosa che fa male, perché fino adesso non si è ammalato nessuno, anzi. Però purtroppo diciamo che esiste una sorta di mercato nero, perché legalmente non si può vendere. Quindi è un mercato clandestino, insomma, sia dei produttori che dei consumatori, è così? Ho sentito male, mi scusi. No, dico, c'è un mercato clandestino sia per il consumatore che per il produttore. Esatto, c'è un mercato clandestino e addirittura all'inizio veniva venduto meno del prezzo del formaggio, diciamo quello buono. Adesso qualche, costa anche qualche euro in più e c'è anche la fila per comprarlo, devo dire. Bene, grazie Antonio Puzzo, confesso che è l'unica cosa che ho mangiato con un verme dentro. Quindi sentiamo Ermanno da Pavia, buongiorno Ermanno, radioascoltatore, breve perché siamo in fondo. Buongiorno, sì, sì, rapidissimo. Vabbè, un tipo di formaggio di questo tipo c'è anche nelle langhe, eh? È squisito, con dentro le larve che viaggiano ed è squisito. Io però volevo dire, ho avuto l'esperienza di girare parecchio e una volta, trovandomi in Colombia, tra l'altro con mio cognato, mi propose, mentre giravamo, ecco, un sacchettino che vendevano e mi ha detto prova a mangiarlo. Io l'ho mangiato, ho mangiato delle palline di circa 8-10 mm di diametro e mi ha detto guarda quello lì è un insetto, qui la chiamiamo la ormica culona perché è una formica piuttosto grossa, staccano l'addome ed è ottima da mangiare. Bene, anche questa è un'altra esperienza, ma ce ne sono tante, sento. Sentiamo Luigi da Lodi, un altro radioascoltatore. Buongiorno Luigi. Buongiorno, grazie mille. Spenga la radio perché sennò non riusciamo a parlarci. Velocemente anche lei perché siamo in chiusura. Sì, io purtroppo l'ho sentita un po' sì, un po' no, perché in autostrada non prende. Volevo solo sapere se il valore proteico, se è solo valore proteico quello che ho potuto capire. O ci sono altri valori per... No, il problema da cui è nato tutto è questo, diciamo, monito che ha lanciato la FAO sostenendo che la fame nel mondo in una parte appunto del pianeta potrebbe essere combattuta ricorrendo al, diciamo, al cibo degli insetti, quindi non è che è un fatto soprattutto di valori nutrizionali, perché abbiamo sentito dal punto di vista nutrizionale Marco Valle ha un po' smentito questo fatto, diciamo, di maggior valore nutrizionale rispetto a fagioli, cicerchie o d'altro, quindi sicuramente è molto discutibile questo, no? Io credo che ad oggi il problema che si pone è quello appunto di una parte del mondo che così sostiene la FAO, non sicuramente tutto da dimostrare che si potrebbe combattere, ma c'è anche qualcuno che ha scritto giustamente che con tutto il cibo che viene buttato probabilmente nel mondo occidentale non c'è sicuramente bisogno di ricorrere agli insetti, forse è un'esperienza gastronomica per alcuni, per altri appunto fa ribrezzo, quindi non direi che si può sostenere mangiando insetti abbiamo dei valori nutrizionali superiori a quello che si può altrimenti mangiare. Bene, siamo arrivati in fondo a questa trasmissione, io non ho letto tutti gli sms, alcuni sono appunto di rifiuto totale ma anche appunto un rifiuto molto forte, altri invece sono favorevoli per esperienze che hanno fatto in giro per il mondo. Io bene, chiudo questo viaggio appunto tra gli insetti, ricordo che domani al riposo del guerriero alle 11.40 darò come ogni domenica i suggerimenti su ristoranti, prodotti, osterie, trattorie, vini, oli e via di seguito. Quindi vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 11.40. Bene, oggi chiudiamo, vi auguro a tutti un buon weekend e appuntamento anche alla prossima settimana, magari parleremo di cose molto più piacevoli per molti.